io son Chisciolo. È nato nobile, non si può negare, ma tra lui e suo padre hanno dissipato e ora non ha pena da vivere, tutta volta gli piace fare il grazioso. Si vede che vorrebbe essere generoso, ma non ha lugani. Dona quel poco che può e vuole che tutto il mondo lo sappia. Egli sarebbe un bellissimo carattere per una delle vostre commedie. Aspetti che arrivi la compagnia e che si vada in teatro. E può darsi che ce lo godiamo. Abbiamo noi dei personaggi che per diventare i caratteri sono fatti apposta. Ma se volete che ce lo godiamo, bisogna che con lui seguitiate a fingere di dame. Ah, di più? A calcio in culo. Vuole questo? Sì. Questo.